la posizione di Europa Verde è fortemente critica, perché siamo di nuovo di fronte alla trasformazione di terreno agricolo in area logistica. La nostra regione è interessata da una miriade di richieste di autorizzazioni, appunto, per realizzare nuovi poli logistici, e questo sprawl logistico, come lo chiamiamo, continua a pesare sia, appunto, sul consumo di suolo sia sul traffico e il trasporto di merci su gomma. Quindi due elementi assolutamente contraddittori rispetto all'emergenza ecologica e all'emergenza climatica, che vanno contrastati in modo diverso. E qui ci risiamo, appunto, perché si tratta di un progetto che insiste su un'area di 190.000 metri quadri, comprende quindi terreno d'uso agricolo, attualmente parliamo di 86.700 metri quadri, quindi quasi la metà. Si tratta di un'opera che, come ripeto, va a pesare negativamente sulla viabilità esistente ed incrementa il trasporto di merci su gomma. Quindi noi dobbiamo ridurre le emissioni climalteranti, che derivano anche dal sistema del trasporto, appunto, motorizzato non elettrico. Dobbiamo ridurre le emissioni inquinanti, perché sappiamo che la nostra regione è sotto infrazione per superamento continuativo dei limiti di concentrazione delle polveri sottili, e continuiamo a fare invece degli interventi che vanno in direzione contraria, cioè che incrementano il disagio. Sullo sprawl logistico vorrei anche aggiungere che attualmente sono in corso pratiche nella sola città metropolitana di Bologna per nuove strutture logistiche che interessano 316 ettari di superficie territoriale, quindi 1.316.000 metri quadri di superficie utile. A proposito del polo logistico, appunto, dell'ex Beghelli, che, come ricordavi bene, si inserisce in un quadro più ampio, questo progetto può ancora essere fermato? La risposta che ho ricevuto ieri dall'assessore, sì, in un certo senso sì, perché c'è ancora uno spiraglio. Volevo anche aggiungere che questo progetto comunque gode di una procedura semplificata, perché è stato valutato opera di interesse pubblico, e essendo opera di interesse pubblico sfugge alla procedura di valutazione di impatto ambientale. Quindi anche su questo abbiamo interpellato la regione, che però ha risposto che non può intervenire su questi progetti, che sono, appunto, decisi a livello di enti locali, che la regione al massimo può intervenire su superfici logistiche oltre i 40 ettari di superficie in qualche modo interessata. Però, ecco, è vero che dalla risposta che ho ricevuto l'unico elemento positivo è che non è ancora conclusa la procedura preliminare. Quindi speriamo che ci sia la possibilità di rivedere la variante alla pianificazione urbanistica esistente, che è stata, appunto, concessa con questo, diciamo, bypass, che ha definito il progetto ex Beghelli come un progetto di rilevante interesse pubblico. Ora uno mi deve spiegare dov'è il rilevante interesse pubblico. Sappiamo anche che la logistica è un settore a bassa occupazione di personale, perché nell'industria normale c'è un occupato in media ogni 100 metri quadri, nella logistica ce n'è uno ogni 500-600, si consuma quindi molto più suolo in rapporto alla occupazione di personale. Poi non è il caso di tutte le aziende, ma in molte imprese, come ci restituisce anche la cronaca dei media locali, molte di imprese di logistica offrono anche condizioni di lavoro veramente al di sotto dei minimi sindacali, non solo in termini di retribuzione ma di sicurezza. Quindi è un settore che comunque va posto sotto diciamo la lente di ingrandimento, non facilitato concedendo, appunto, autorizzazioni a man bassa che consumano suolo. Infatti su questo io ho anche presentato una interrogazione alla Giunta per sollecitarla ad adottare uno strumento simile a quello della città metropolitana, quindi una carta per la logistica etica, tanto più che la Giunta regionale, appunto, e poi successivamente l'Assemblea legislativa hanno approvato il patto per il lavoro e il clima, che comprende anche norme che vanno nella direzione contraria, appunto, al consumo di suolo e favorevole invece alle garanzie per chi lavora.